con Manuela di Logos, Festa della Parola, al Parco delle Energie ex SNIA Viscosa a Roma dal 10 al 14 ottobre. Manuela, ben trovata. Ben trovato e buongiorno a chi ci ascolta. Ci presenti il festival? Allora, sì, senz'altro. Logos, per chi non lo conoscesse ancora, è un appuntamento che ormai da 8 anni assomma un po' di quelle energie che attraversano la SNIA, il quartiere del Pigneto, ma soprattutto, diciamo, riflettono una possibile cassetta degli attrezzi, un vocabolario comune del mondo che stiamo costruendo. Quindi ogni edizione si è contraddistinta per radunare intorno ad una parola. Quest'anno la parola è limite, quindi avremo 5 giorni, quest'anno eccezionalmente, invece di 4, con editoria indipendente, musica, cinema, fotografia, teatro, cioè tutti quei linguaggi, tutte quelle testualità capaci di restituire il senso del limite su cui appunto abbiamo deciso quest'anno di riflettere. Dicevo eccezionalmente 5 giorni perché abbiamo un'anteprima a partire da domani, tutta dedicata al cinema. E questo in collaborazione con Nuovo Cinema Aquila, che è la sala del quartiere che anche grazie all'ex SNIA Viscosa è stata, diciamo, riaperta e quindi anche messa a disposizione del quartiere in modi inediti per certi versi, perché noi avremo a disposizione lo spazio della sala grande per 2 appuntamenti, uno mattutino con le scuole, che vedrà la proiezione accompagnata in questo caso da commenti e confronti con Ilaria Cucchi e ACAD, Associazione contro gli abusi in divisa, del film Sulla mia pelle. Quindi, diciamo, vogliamo intendere questo come un appuntamento dedicato a una riflessione che coinvolga un'utenza un po' particolare, quindi quella degli ultimi anni delle scuole superiori, che non sempre, diciamo, va di sua fonte in sala, anche se magari è una grande consumatrice di cinema, e probabilmente non è decisamente orientata per alcuni contenuti. E poi proseguiremo la sera alle 20:30 con un film che viene direttamente dall'ultima edizione di Locarno e soprattutto che è stato uno dei film proposti per la selezione come miglior film straniero per gli Oscar 2019 a rappresentare l'Italia. L'ultimo film di Costanzo Quattrillo, Sembra mio figlio. Lei ci accompagnerà alla proiezione e insomma, ricordiamo che l'ingresso sarà gratuito proprio perché in questo caso si tratta di un'operazione diversa, diciamo, da una semplice andata in sala con bigliettamento. Quindi sì, cominciamo già da domani e poi a partire da giovedì negli spazi dell'ex SNIA Viscosa, del Parco delle Energie e del Lago che Combatte. Avremo, per quanto riguarda in particolare sempre contenuti relativi al cinema e al teatro, una serie di titoli che in maniera differente affrontano appunto la parola limite, comunque come frontiera, comunque come estrapolazione per certi versi. E la prima presentazione sarà di un documentario di due nostri cari amici, Arturo Lavorato e Felice D'Agostino, che si intitola E si bruciano ancora. È un film sul risorgimento come, diciamo, maschera ideologica di un processo di colonizzazione mai terminato nei territori del sud. Il titolo proviene da una citazione di un bollettino e un po' sintetizza il senso di questo film, perché dopo il massacro di Ponte Landolfo, poi se qualcuno avesse curiosità di andare a vedere, ma è stato un episodio estremamente sanguinoso della lotta nel 1861 per la costruzione di questa unità d'Italia, ebbene, alla fine del bollettino un colonnello telegrafò al generale plenipotenziario: giustizia è stata fatta, essi bruciano ancora. Quindi, per certi versi, l'immagine, se volete, più forte, per certi altri più sintetica, ma incredibilmente violenta, di corpi in fiamme. A seguire. Questa è stata una sorpresa degli ultimi giorni, non potevamo restare indifferenti a quello che sta accadendo a Riace. Abbiamo avuto la possibilità di avere un piccolo lavoro, sono 10 minuti, è un corto, che si intitola Il signor sindaco e la città ideale. È un progetto che nasce dalla macchina fotografica di Gianfranco Ferrari, il quale in realtà poi ha composto parte di questi scatti come un racconto, come dire, in sequenza, predicativo, quindi appunto un piccolo racconto che si dipana attraverso situazioni emblematiche che ci portano in questa sorta di città ideale che poi è quella di Riace, del sindaco Mimmo Lucano. La sera, una persona che non ha bisogno di presentazioni, parliamo sempre di giovedì 11, Nanni Balestrini, poeta, scrittore, militante, artista visuale, ci leggerà una selezione di sue poesie e dopo un'incursione in un'altra Roma. Avremo un reading Roma Ribelle che si porterà con Tamara Bartolini e Michele Baronio attraverso i vicoli di una città che forse non conosciamo abbastanza, che magari si muove dai racconti di Sandro Postelli sulle coste ardeatine, però poi finisce al lago che combatte, al lago dell'ex Isernia. Continuiamo poi il venerdì col cinema, ovviamente l'ispirazione, la scelta dei titoli parte anche da alcuni incontri della giornata, avremo un incontro sulla gentrificazione, con contributi da vari collettivi dalle capitali europee, quindi Barcellona, Lisbona, ovviamente Roma, e quindi proietteremo un lavoro di un collettivo lusitano, la Stand Rotation, che si intitola Terra Motori. Interessante comparazione tra il terremoto che nel 1755 distrusse Lisbona e spostò gli uomini dal centro della propria città, perché le rovine legittimarono una sorta di politica, chiaramente di dispotismo e di redistribuzione di spazi, e tutto questo viene, diciamo, posto come una sorta di antecedente di nuovi assolutismi, quelli della speculazione, quelli che fanno crollare il diritto alla città e che consegnano la metropoli appunto alla gentrificazione. Dopodiché, per quanto riguarda la sera, volendo parlare di un altro tipo di limite, quindi l'inclusione del limite, l'ospedalizzazione della differenza, 40 anni della legge 180, abbiamo Wuming e Contingent che ci porterà una performance di musica e letture con la terapia del fulmine. Poi penso di stare prendendo un sacco di tempo, quindi accelero. Tranquillo. Sabato avremo un appuntamento cinematografico dedicato alla Palestina, dedicato, diciamo, a due aspetti, quelli dei territori occupati da Cisgiordania da una parte e dall'altra Gaza, quindi con due film in realtà di qualche anno fa, premiati a buon titolo. Uno proviene dall'archivio del Festival Cinema e Diritti di Napoli, nostri cari amici, un altro da un progetto interessante che invito chi ascolta magari ad andare a spulciare su internet, che OpenDGB, distribuzione dal basso, diciamo una scelta consapevole di distribuzione capillare, di disseminazione attraverso contributi volontari per il download dei film. Per intenderci, contenuti rarissimi, c'è anche il maestro Agosti che ha deciso di adottare questa piattaforma. E quindi dall'uno e dall'altro abbiamo avuto This is My Land Hebron di Giulia Amati e Stephen Nathanson, che ci descrive la vita di Hebron, che è la più grande città della regione occupata del West Bank, una città in cui, diciamo, 200 persone nutrite da un odio fondamentalista, che non è quello islamico, tengono in ostaggio una cittadinanza di circa 160.000 persone girate a sei religioni differenti. Insomma, ve lo invito così perché penso che gli ascoltatori di determinati spazi di questa situazione lo sappiano abbastanza. E poi un altro è Street Life, appunto è un film non su Gaza ma con Gaza, perché nell'arco narrativo di una giornata ci sono storie di personaggi che un po' si fondono nel contesto ambientale, storie anche molto tenere, dove comunque sia viene di fatto allontanato il senso di quella violenza quotidiana che purtroppo sappiamo caratterizza la vita in questi posti. Dopodiché abbiamo per la domenica, che sarà una giornata molto impegnativa perché prevederà tanti tanti appuntamenti, tutti concentrati in quello che noi stiamo cercando di far riconoscere come monumento naturale, quindi il lago, o il lago del Combatte, come è conosciuto da molti, e ritaglieremo in questo calendario molto denso comunque un appuntamento cinematografico, un appuntamento cinematografico, come dicevo, altrettanto impegnativo perché si tratta di un film che nella sua interezza dura quasi 3 ore, un po' la corazzata un po' di tutti i nostri giorni. È un film di un cineasta americano, David Sutherland, ed è un progetto molto particolare perché appunto dura così tanto dal momento che è concepito in alcune parti, che sono poi l'espediente che ha consentito al regista di seguire negli anni la storia di Robin, che è una nativa americana, la quale sintetizza appunto ancora una volta la parola intorno a cui stiamo ragionando. È una quotidiana battaglia per crescere i figli, migliorare la propria educazione, curare, diciamo, le ferite di abusi in infanzia, la possibilità di una vita degna che possa essere anche accettata in una comunità in cui il patriarcato è ancora fortissimo. Insomma, è un po' un tentativo di cogliere un altro lato dimenticato del paesaggio americano, cioè di dare volto comunque a delle vite come al solito un po' trascurate. E come dicevo, il film è stato licenziato in due parti, la prima nel 2013 e l'altra nel 2018, che di fatto non è nient'altro che il compendio degli 5 anni che poi sono trascorsi dalla prima parte. Ma spero di non essermi dimenticata niente, spero che nel frattempo qualcuno non si sia preso la briga di spegnere la radio o di spostarla. E Federico, che dire, grazie mille per lo spazio che hai concesso a Logos, che chiaramente è fatto di tantissime altre cose, come dicevo da principio, quindi avremo Certo. incontri, abbiamo appuntamenti editoriali, abbiamo una ricchissima presenza di editori, di distributori, quindi veniteci a trovare, non mancherà la musica e poi ovviamente per chi magari avesse qualche problema durante la settimana per ragioni lavorative, non avete scuse, la domenica al Lago del Combatte. Ricordiamo l'appuntamento con Logos, Festa della Parola, che quest'anno è limite, al Parco dell'Energia, all'ex SNIA Viscosa a Roma, dal 10 al 14 ottobre. Un saluto a Manuela. Manuela, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede Assolutamente sì, quindi ci vediamo a Logos. lì. Ciao. Ciao, grazie ancora.